Buongiorno carissimi amici di Runtime Radio, il 9 giugno alle ore 21:30 è andato in live l'episodio di Quando eravamo futuro dedicato ad Alfredino Rampi. Come immagino noterete durante la puntata, l'esposizione, diciamo il racconto di questi eventi, di questa situazione che ha comunque segnato in qualche maniera il nostro paese è stata abbastanza, non dico complicata, però abbastanza sentita, ecco, dal mio punto di vista. L'aver costruito, progettato questo episodio, l'aver raccolto materiale è stato molto impegnativo, perché questi eventi, questa cronistoria, questa storia si riagganciava in maniera molto importante a ricordi in qualche maniera indelebili all'interno della mia anima, insomma della mia persona, e quindi alcuni eventi si riagganciavano a suoni, a sensazioni, a percezioni che magari allora comprendevo relativamente e che oggi hanno avuto una maggiore manifestazione. E sono molto contento e ringrazio tantissimo tutte le persone che hanno partecipato alla diretta, perché la parola partecipazione secondo me in questo caso è veramente la parola giusta, perché per quanto sia c'è stata una partecipazione rispettosa e anche un contributo da parte delle persone presenti durante la diretta, che hanno comunque voluto raccontare un pochino quello che quei frammenti di ricordo che erano dentro di loro. Voi sapete che questa puntata è andata in onda anche su Twitch e su Facebook come puntata video, e presto sarà caricata anche sul canale YouTube di Runtime Radio. Forse, se avrete l'opportunità, può anche un po' convenire, diciamo, vedere la puntata video se non l'avete seguita in diretta, perché chiaramente c'è un ausilio multimediale, nel senso c'è un utilizzo, diciamo, di immagini, di testi che in qualche maniera accompagnano la narrazione. Però questo è stato un po' anche il problema, perché voi sapete che noi da Runtime Radio per un po' di tempo abbiamo iniziato, diciamo, a fare queste interconnessioni tra radio e Twitch, anche se poi presto ridimensioneremo un pochino anche questa cosa, ed è successo, insomma, un piccolo problema, un errore chiaramente dal punto di vista tecnico, perché sebbene nel nostro addestrarci a fare questo doppio tipo di salto, doppio tipo di regia, la diretta video e la diretta audio sono partite contemporaneamente, ma quello che ho dimenticato è far partire la registrazione audio di questo episodio. Pertanto lo considero uno di quegli errori che si fanno proprio in questa fase dove ci dobbiamo abituare, insomma, a utilizzare questo doppio meccanismo. In particolare, comunque, ieri sera, che ero comunque particolarmente emozionato, quindi diciamo, se a volte tendo ad essere più severo con me stesso, in questo caso non dico che, insomma, mi perdono, ma insomma poco ci manca da questo punto di vista. Ovviamente questo poteva essere un grosso problema, perché avremmo perso una puntata che comunque consideriamo bella, che comunque consideriamo un buon racconto, un bel modo di esporre, ricordare un evento che comunque non va mai dimenticato. E grazie a Dio, insomma, c'è la registrazione video di questo episodio, dal quale ovviamente abbiamo estratto la puntata, insomma, che state per ascoltare in podcast. Chiaramente questo disclaimer è per farvi capire che l'audio non sarà pulito come le trasmissioni radio che facciamo solitamente, dove c'è comunque la registrazione dalla fonte originale, ma è comunque, diciamo, l'audio già compresso, già elaborato dello streaming video, che chiaramente, insomma, ha un minimo di problemi. Spero che questa cosa non vi disturbi particolarmente nell'ascolto e che comunque vi porti a ricordare insieme a noi la storia di Alfredino, questa grossa tragedia che comunque in qualche maniera ha cambiato l'Italia. Buon ascolto. Runtime Radio presenta Quando eravamo il futuro. Un programma antologico, monodirezionale e spazio-temporalmente dislocato a cura di Carlo Sant'Agostino, Davide Gatti e Simone Pizzi. e benvenuti carissimi amici di Runtime in questo nuovo episodio con me naturalmente Carlo Sant'Agostino. Ciao Carlo. Ciao, buonasera a tutti gli ascoltatori. Bienvenidos, bienvenidos. Spettatori anche, video. Teleascoltavisori. Teleascoltavisori. Ok, te l'ascolta Visiori e c'è anche Davide Gatti. Buonasera, buonasera a tutti, eccomi qua insieme alla Combricola. Come avete visto all'inizio abbiamo aperto con un trailer, come un po' abitudine, anche l'altra volta l'abbiamo fatto, ed è un trailer che riguarda ovviamente il canale Survival Hacking di Davide Gatti. Davide, di che cosa si tratta? Abbiamo visto un personaggio... Ho hackerato Terminator. Ah, hackerato Terminator, mica. Ho donato a Terminator gli occhi del passato per vedere il futuro. Bene. Allora ragazzi, alcune informazioni prima di partire, tanto che sta arrivando la gente, insomma, che comunque... se volete potete tranquillamente scriverci nella chat, possibilmente anche su quella di Dirette Runtime su Telegram, però possibilmente sarebbe il caso che usiate i canali video che sono in questo momento in funzione, ossia il gruppo Facebook di Quando Eravamo Futuro, la pagina Facebook di Runtime Radio e il Twitch di Runtime Radio. Purtroppo, ve lo dico subito, il canale YouTube di Runtime Radio questa sera non può trasmettere, fino a lunedì non può trasmettere per cose che sono successe durante il keynote di Apple, per colpa di Apple, diciamo. Esatto, che non ha gradito e quindi insomma ci hanno messo in castigo per una settimana. Detto questo, diciamo che tendenzialmente, per darci anche un po' il tempo di ricaricare un po' la questione, abbiamo deciso di fare Quando Eravamo Futuro un giovedì sì e un giovedì no. Questo darà anche spazio alle alcune live di archeologia informatica / videoludica, che è comunque archeologia informatica. Quindi se vedete che non c'è il giovedì nei nostri palinsesti, non vedete il giovedì quando eravamo futuro, probabilmente ci potrebbe essere una diretta il mercoledì di archeologia informatica. Per esempio mercoledì prossimo c'è Mario. Esatto, Mario, sì, barista, però Mario I suppose, sono io Mario di questo. Mentre invece in questo e prima di parlare appunto di questo episodio, che è un episodio importante, nel senso che un po' complicato forse da un certo punto di vista, diverso sicuramente da tantissime puntate che abbiamo fatto di Quando Eravamo Futuro, però come ho tenuto a ricordare, gli anni 70-80 non sono stati soltanto capelli cotonati, rock band, musica pop e tanti luci e colori, ma sono stati anche un momento di crocevia, di grande passaggio pure dal punto di vista storico e politico nel nostro paese. In più sono successi degli eventi che hanno comunque segnato un po' la nostra storia, hanno diciamo fatto perdere un parte della nostra ingenuità, forse parte della nostra verginità da un certo punto di vista, e ci hanno portato in un mondo che poi piano piano radicalmente si è trasformato nel bene e nel male, e in questo caso racconteremo anche alcuni aspetti del male. Però vi volevo anche dire che il 25 e il 26 giugno, non c'entra niente, però se volete venirci a trovare, saremo al Nerd Show a Bologna. Carlo, esatto, nel show di Bologna ci saremo con tutta lo staff di Retrocampus, che porterà ovviamente le solite, diciamo, mostre di computer vintage particolari e amenità varie. Porteremo noi stessi, ci sarà Davide ovviamente. Io porterò Terminator, esatto. Ah sì, lo porti Terminator? Sì, io lo porto. E ci saremo anche come archeologia informatica, ci sarà Simone, ci sarà tutto lo staff di archeologia informatica, quindi se volete venirci a conoscere personalmente, vedere come siamo belli magri e scattanti, venite al Bologna Nerd Show e portateci da mangiare anche. Mangiate voi, perché io purtroppo sono... Ma sì. Abbiamo capito, è giusto. Però non è che stai lì che fai, mangi, scusa, ti porti il risetto dentro la saccoccia? Sì. Vabbè, allora, pranzo proteico per Carlo, e noi per solidarietà faremo quello che fa lui. Esatto, mangeremo. Garantita questa cosa. Salutiamo Vincenzo già nella chat, che ci saluta. ma soprattutto c'è un Walter Sbano nella chat di Rante Medio su Telegram che ci fa vedere che si è appizzato col televisore. Mi fa piacere, perché insomma vuol dire che almeno ci tiene. Allora, di che parliamo oggi? Parliamo oggi di una storia che ci ha segnato molto, soprattutto a noi che eravamo più ragazzini, perché diciamo che è un po' complicato parlare di questa storia. Io non so se Carlo è d'accordo con me, forse Davide... No, sono d'accordo che è complicato. Sì, sono d'accordissimo. Magari Davide era più grandicello, no? Noi magari che eravamo più ragazzini in qualche maniera l'abbiamo vissuta un po' male, anche perché ci ha anche spaventato, no? Nel senso che... Sì. Alla fine io avevo 11 anni, non so quanti ne avevi tu, Simone. Sì. Io del 72, 81, c'avevo 9 anni, quindi l'ansia c'era come anche a 16 anni. Anche perché quello che è successo in questa storia poi è una storia che in realtà poteva succedere ed è successo poi altre volte, insomma. Ricordo ci fu anche un film americano, tra l'altro non si è mai saputo se fosse poi ispirato, diciamo, alla storia, questa storia qui, o se fosse ispirata magari una storia, un avvenimento che è accaduto in Italia, cioè in America in quel periodo. Parliamo di Alfredino, la storia di Alfredino, che chi ha la nostra idea, la nostra età, la storia di Alfredino Rampi un po' la conosce. Se non la conosce nel dettaglio, se non sa veramente che cosa è successo, sicuramente si ricorda, ha una memoria, a qualcosa che è rimasto dentro di lui, magari per tutto il contorno, per tutta la situazione, per questa sensazione di pressione, di emozione globale, no, collettiva, che alla fine ci ha attanagliato. Perché comunque Alfredino era un bambino come tanti, cioè aveva 6 anni, passeggiava col padre nelle parti di Vermicino, che sono vicino a Frascati, nel nord, al sud praticamente di Roma. E durante questa passeggiata lui si era stufato di fare questa passeggiata e voleva tornare a casa. La casa dove lui si trovava, cioè dove loro abitavano, era comunque vicino al posto dove in quel momento stavano passeggiando. Il padre lo ha autorizzato, dice va bene, vai. E Alfredino a casa non c'è mai tornato, chiaramente. Questo è una cosa che penso sia chiara, perché sta proprio al fatto che lo stiamo raccontando. E praticamente immediatamente dopo al non sapere dove era andato il ragazzino, poi qui entriamo anche un po' in quello che poteva essere la testa del padre, no? In una situazione come questa, che veramente c'è già il dramma già di per sé, no? In una condizione come questa. E iniziano delle ricerche che ovviamente non portano a niente poi fondamentalmente, perché erano magari delle ricerche organizzate. A un certo punto della serata, verso le 21, si decide di chiamare le forze dell'ordine, le quali intervengono e inizia praticamente una sorta di ricerca di questo bambino, tra l'altro anche con i cani. Ma a scoprire dove era finito il bambino fu uno dei poliziotti, che camminando sentì questo lamento. Il problema è che fu difficile all'inizio intercettare dove era finito questo bambino, perché il pozzo artesiano dove lui era caduto, perché questo è quello che è successo, era stato coperto da un coperchio, cioè da una copertura. Copertura che poi si venne a sapere che fu rimessa a posto dal proprietario del campo dove si trovava questo pozzo. Ma chiaramente anche lì fu dimostrato che non ci fu un'intenzione, cioè chiaramente lui non si rese conto di quello che era successo e non sapeva che il bambino era dentro, e giustamente, essendo sera, ha dichiarato che questo pozzo venne coperto per sicurezza, poi chiaramente. Ma purtroppo la sicurezza doveva essere prima, purtroppo la cosa. Ma lui lo faceva sempre, tutte le sere, era una cosa abitudinaria per lui, ecco. Sì, sì, no, ma infatti diciamo che poi il problema, cioè in una condizione come questa, è che spesso e volentieri, anzi ancora forse in quel periodo non esisteva questa logica, però diciamo che c'era c'è questa cosa, no, del cercare comunque un colpevole, allora è colpa tua perché certo. Però magari lui lo faceva da 40 anni, quella roba di 40 anni non è mai successo niente, e basta. Questa cosa dei pozzi nei campi, purtroppo poi, cioè nel senso, magari nelle condizioni in cui erano messi, come erano segnalati, se non erano segnalati, questo era un periodo, era un'Italia diversa, era un mondo diverso, quindi sapete, certe attenzioni che ci sono oggi magari allora veramente non c'erano. Comunque il problema è che Alfredo è caduto in questo pozzo che era largo, pensate, 30 centimetri, cioè lui era un bambino esile, piccolo, di 6 anni, quindi c'è caduto per dritto, poi fondamentalmente, perché sarebbe stato, cioè nel senso, se fosse caduto per storto magari andava dentro la gamba e lui rimane, invece proprio c'è andato. E il fatto che il pozzo fosse praticamente di 30 centimetri è stato poi la cosa che ha creato più problemi da questo punto di vista, ossia il tentare di raggiungere il bambino è stata la cosa più complicata. Il primo tentativo che fu fatto, diciamo come logica, come tipo di strategia, era quello di calare imbracata in qualche maniera una tavoletta in maniera tale che il ragazzino si potesse aggrappare alla tavoletta e poi essere trascinato su. Ecco, diciamo che questo fu il primo errore, ovviamente in questo caso diciamo un errore involontario, perché cioè non c'era l'intenzione di essere cialtroni su questa cosa, era comunque un tentativo, una speranza. Il problema è che il pozzo non era regolare, cioè non aveva una discesa regolare, e questa tavoletta si mise di traverso, quindi praticamente ne impedì qualsiasi tipo di ulteriori operazioni, perché si incastrò proprio, quindi fu praticamente impossibile. Poi io vedo, Carlo, se c'è già gente in chat, se c'è qualche messaggio interessante magari leggiamolo, perché io adesso sto andando un po' così a braccio, ma poi possiamo anche fermarci da capitolo a capitolo e vedere se ci sono cose significative che vogliamo aggiungere o vogliamo dire, no? Sì. Ok, e vabbè, questa cosa della tavoletta, insomma, forse il, ecco, tu la ricordi questa cosa della tavoletta, Carlo? Per esempio, questa è una cosa che io non ricordavo, ovviamente. Non me la ricordo, non mi ricordo questi dettagli. Io ho dei ricordi vividi delle riprese TV dell'epoca, del fatto che si vedeva solo quello. Poi non so se ne parleremo più in dettaglio, ma io mi ricordo che praticamente accendevi la televisione e c'era le riprese di Alfredino, sì. Da mattina al pomeriggio, la sera. Mi ricordo proprio nitido il ricordo che ho di mia nonna e mia zia attaccate proprio alla televisione tutto, sì, il giorno a seguire questa cosa qua. E io ogni volta che entravo in sala dove c'era mia nonna, erano lì a guardare Alfredino. La sera si guardava quello cioè siamo andati avanti così credo una settimana, non so quanto è durato, però allora non è durato una settimana, ma poi di questo ne parliamo, perché in effetti è uno dei punti fondamentali un po' di questa storia. Ma comunque della tavoletta io assolutamente anch'io non ricordo, sebbene sia una cosa determinante da quello che dici, quindi cioè molto importante se non fondamentale, errore. È stato un po' il primo errore che ha rallentato molto poi le operazioni. In realtà io non me la ricordavo, ma ho in questi giorni, quando ho raccolto un po' tutte le documentazioni, leggendolo me lo ricordavo, perché poi avevo visto documentari, cose, insomma, quindi negli anni è stata una cosa che ribadisco, per noi di quella generazione, anche se non ci ricordiamo bene l'evento, non possiamo non dire di non essere stati segnati da questa situazione. Comunque lo Stato ha voluto immediatamente presenziare in maniera forte. Ricordiamo, se non sbaglio, Carlo, qui mi puoi venire incontro, che non esisteva la protezione civile allora in Italia, non c'erano degli organismi. No, è abbastanza recente l'introduzione, esatto, della protezione civile in Italia, esatto, come ente. Però c'erano i pompieri, i classici. Più che altro, c'era proprio un coordinamento generale, no? Nel senso, non esistevano delle forze speciali o comunque dei nuclei speciali di coordinamento fra le varie interforze, che poi magari si sono sviluppati successivamente, forse anche grazie a questo evento. Ma quali furono gli eventi fondamentali? Allora, i vigili del fuoco vollero prendere immediatamente il controllo della situazione, insieme ovviamente alla polizia, ma come coordinamento, quindi come responsabilità d'azione, furono i vigili del fuoco che vollero prendere chiaramente il controllo, anche perché erano tecnicamente quelli più indicati per questo tipo di di azione, si decise immediatamente di utilizzare una trivella. La scelta della trivella fu strategicamente anche sensata da un certo punto di vista, perché quello che si volle fare era scavare un tunnel parallelo, dato che il tunnel era inaccessibile, e poi con la tavoletta ancora di più, scavare un tunnel parallelo, congiungere praticamente i due pozzi, quindi quello nuovo che stavano costruendo e quello vecchio, e raggiungere il bambino e poi estrarlo. Chiaramente poi questa cosa non fu così, perché intanto il problema è che la trivella non fu una trivella dello Stato, ma fu la trivella di un privato, di un imprenditore, che si la mise a disposizione, ma arrivò comunque la mattina dopo abbastanza tardi, per tante ragioni, tra le quali ovviamente non tutti sapevano dove era Vermicino. Cioè oggi ci abbiamo Google Navigator, una volta non c'era Google. Esatto, noi ancora facciamo notare poi la differenza, che è sostanziale, cioè nel senso, oggi un'emergenza come questa, dopo, dipende da quanto sei distante, ma dopo X tempo sei arrivato, e sei arrivato a colpo quasi sicuro, insomma, da questo punto di vista. Certo. Poi ovviamente diciamo che ci furono vari tentativi, insieme diciamo alle decisioni che avevano preso i vigili del fuoco, nel frattempo che si attendeva erano state prese delle decisioni alternative, perché per esempio e qui entriamo in una categoria di persone che hanno diciamo contribuito molto a questo tipo di specifico di evento, cioè gli speleologi, che entrano in campo in più situazioni, perché gli speleologi sono abituati a entrare in situazioni diciamo geologiche particolari, in condizioni molto difficili insomma di gestione, e per la maggior parte dei casi sono anche persone di piccola statura, chiaramente. E, diciamo che uno dei primi che fece questo tentativo fu Tullio Bernabei, che entrò nel tunnel, cioè nel pozzo, non per raggiungere il bambino, ma per provare a eliminare questa benedetta tavoletta, che come abbiamo detto è stato un po' il grosso dei problemi, insomma. Però vabbè, anche qui ci furono delle polemiche, perché il primo intervento fu praticamente fallimentare, e i vigili del fuoco vollero continuare a diciamo a far più che a intervenire, perché poi dopo comunque tra quello che avevano deciso e quello che poi diventava esecutivo ci voleva del tempo, stavano ancora aspettando la trivella, e era più questo tentativo goffo di voler: noi siamo lo Stato e quindi ci dobbiamo pensare a noi, cioè nel senso, voi siete speleologi, non è una vostra competenza. Ecco, questa è un'altra cosa che Carlo, non so se ti è mai capitato, in altre situazioni abbiamo visto insomma questo atteggiamento goffo dello Stato, quando poi alla fine in realtà altre realtà della società civile volevano offrire comunque il loro contributo. Dobbiamo ricordare, come abbiamo detto prima, che non esisteva un coordinamento e diciamo tutto fu fatto molto in maniera caotica, molto alla rinfusa, tant'è che uno dei grossi problemi è che la piana del posto dove era successo l'evento si riempì quasi subito di persone, talmente tante persone a un certo punto che non c'era più neanche la possibilità da parte delle forze dell'ordine di gestire il caos e quindi eventuali ambulanze, feriti, cose necessarie. Ma, e qui vorrei poi soffermarmi un attimo, così poi sentiamo anche Carlo e Davide, quello che cambiò veramente la storia di questo evento, ma allo stesso tempo non l'epilogo, perché purtroppo poi l'intervento di questa situazione qua è comunque relativa, cioè nel senso all'esecuzione del problema. E perché praticamente la mattina dopo tutte queste immagini con le telecamere che erano intervenute magari a livello locale, a tutte queste immagini arrivarono alla RAI prima del telegiornale delle 13, e si racconta ovviamente che chi era in moviola in quel momento capì immediatamente l'entità, no, di questa cosa, ma proprio anche la portata di questo evento. Ricordiamo una cosa che è importantissima: il 1981, Carlo magari se lo ricorderà, è stato un anno terribile dal punto di vista sociale in Italia. È stato l'anno in cui hanno sparato al Papa, è stato l'anno che è uscito lo scandalo della P2, quindi tutto l'elenco dei nomi insomma dei partecipanti alla loggia, c'erano stati varie azioni e vari rapimenti delle Brigate Rosse, quindi, e c'era una crisi di governo proprio in quel momento, e tutto questa situazione, questo contesto politico è sparito come d'incanto di fronte a questa situazione, perché poi quando queste immagini appunto arrivarono alla RAI e si aprì il telegiornale dalle 13, si cominciò a parlare praticamente soltanto di questo, e quando praticamente i telegiornali sforavano praticamente lo slot di tempo che avevano a disposizione, si era capito che si stava per iniziare praticamente in maniera involontaria, in maniera concatenata, passando da telegiornale a telegiornale, quella che fu considerata, anzi che è effettivamente la diretta televisiva più lunga della storia del nostro paese, che durò tutto l'evento da quel momento fino al suo epilogo, e come diceva infatti Davide, come diceva infatti Carlo prima, noi ci abbiamo questa memoria, esatto. La memoria dei nostri genitori, dei nostri parenti, ma anche noi stessi magari di fronte alla televisione, che anche se non capivamo, non avevamo la percezione esatta di quello che stava succedendo, ne percepivamo l'ansia collettiva, cioè che comunque è stato il momento in cui un paese intero si è rinchiuso davanti al televisore in maniera assoluta, nel senso positivo in quanto partecipe, in senso negativo perché chiaramente divenne un reality show. Sì. Divenne un evento grottesco, e tutto quello che noi abbiamo visto di brutto nella televisione del dolore, che poi è praticamente cresciuta da lì in poi, è forse in Italia nata in questa situazione. Ricordiamo due eventi fondamentali: il cronista con il microfono sempre vicino alla bocca della madre, quando lei chiedeva ai vigili delucidazioni, la disperazione di questa donna, e in più il famoso microfono calato nel pozzo. Quello penso che sia veramente la cosa più emblematica, insomma, di quello che è. E se oggi è comunque in qualche maniera un documento, anche quello, perché storicamente oggi non lo possiamo considerare un documento, allora fu quasi un atto di sciagallaggio, tutto sommato. Sì, che poi, se tieni conto, era anche i ragazzini, voi eravate più piccoli, io avevo 16 anni, magari ero già più grandicello, avevano questa sorta di autorizzazione non chiesta da parte dei genitori a stare svegli fino alle 2, sì, alle 3, alle 4, alle 5, alle 6, tutto il giorno, sì, tutta la notte. Si era autorizzati ed era concesso che tu potessi guardare questa cosa, perché nessuno ti diceva niente, non è che diceva vai a letto sulle 4, vai a letto, no, stai guardando quello, eri autorizzato. C'era una sospensione delle regole, esatto, esatto. Cioè, nel senso, il mondo s'era, e questo è la cosa straordinaria e forse anche terribile allo stesso tempo, perché si era creata questa bolla di fronte a un oggetto, che l'oggetto era quello che trasmetteva praticamente la situazione, quello che stava succedendo, e ogni minuto c'erano comunque dei richiami all'attenzione della gente, perché chiaramente questa cosa è durata, ragazzi, è durata 60 ore, cioè noi stiamo parlando... Io mi ricordavo giorni, figurati, quindi... Beh, 60 ore sono... Sì, no, ma tipo una settimana nella mia testa era di quando ero piccolo. No, tanto, poi comunque molte di queste ore di cronaca, cioè con qualcuno che parlava e diceva ecco, sì, si sentono delle voci, ecco sta arrivando, manca un minuto e arriva quell'altro. Esatto. Ogni volta c'era un piccolo tentativo di qualche cosa e ecco, forse, no, niente, mi ricordo questa cosa io. Vincenzo infatti in chat scrive: così che iniziarono le dirette infinite, e in effetti è da lì che poi abbiamo iniziato un po' questa tipologia di televisione, se vogliamo, TV del dolore, no? Quella che adesso chiamiamo la televisione del dolore, cioè enfatizzare un avvenimento che ti coinvolge e coinvolge ancora adesso. Guarda, parlarne adesso io non riuscirei, anche vedo che anche tu, Simone, fai fatica comunque, perché mi ricorda, sì, quel periodo lì, sì, sì. E enfatizzare questo questa sensazione di empatia verso la sofferenza era qualcosa che hanno iniziato a capire funziona come audience televisiva in quel momento lì, credo, cioè, almeno in Italia, ecco, sì, diciamo. Anche se, e qui infatti mi piace questa pausa che ci siamo presi un po' per decomprimere in qualche maniera, ma anche per fare un ragionamento, cioè quello che ho percepito io anche rileggendo le cose, guardando i vari documentari che ho visto negli anni, successivamente i giornalisti hanno avuto la consapevolezza di quello che è successo, ma lì per lì non avevano l'intenzione, cioè non c'era l'intenzione, era qualcosa che è nato lì così al momento, esatto. Non se ne sono resi neanche conto, secondo me, però è effettivamente quello. Johnny Siculus scrive un proto reality show del macabro, sì. Più o meno è quella l'idea, sì. Cos'è che sia anche Vincenzo, cercarono anche un inventore che a Portobello presentò una prima versione delle super colle a base cianoacrilato, quello non me lo ricordo. No, manco io questa cosa. Comunque... Io ricordo che comunque molti e tutti, credo, quelli che erano davanti alla televisione o alla radio, come da quando che guardi il campionato di calcio, qualsiasi cosa, se lì diventi il direttore dei lavori anche tu, ma come, ma perché non spostano quella gru a destra, ma perché non portano quelli di là, ma perché non tirano giù le due corde, cioè a tutti, anche per strada fuori dalla televisione in giro, hai visto quella là, ma non hanno neanche provato a tirare giù il filo, a fare cioè, tutte soluzioni che tutti diventavano ingegneri, sì, geologici, che poi era esattamente quello che stava succedendo, cioè non c'era un'idea e quindi non c'era un coordinamento ed era tutto alla rinfusa, era tutto un grande caos, era un'improvvisazione continua. Tra l'altro mi sono dimenticato di dire che quando la trivella arrivò e iniziò a scavare contro il parere dei geologi che erano intervenuti come consulenti dei vigili del fuoco, perché gli spiegarono che la conformazione di quella terra era una conformazione rocciosa e quindi le trivelle avrebbero trovato difficoltà, non è detto, cioè non era detto che avrebbero raggiunto comunque il loro obiettivo in tempi accettabili per le condizioni del bambino, perché noi comunque dobbiamo sempre considerare che quello che in quel momento stava succedendo era una corsa contro il tempo. Una cosa, un personaggio che molti di noi si ricorderanno, ma di questi personaggi io sono convinto che tutti un po' ce li ricordiamo perché ognuno ha dato il proprio contributo, è Nando Broglio. Nando Broglio era il vigile del fuoco che instaurò un rapporto di legame, di empatia con il bambino e fu l'unico, infatti se voi ve lo ricordate o se andate a cercare le immagini, è quello che parlava sempre con il bambino, perché a un certo punto ovviamente questo bambino iniziava a perdere lucidità, iniziava forse probabilmente anche a perdere le forze, la speranza, no? In qualche maniera, e lui fu quello che lo tenne a galla da un certo punto di vista, che instaurò questo rapporto e gli promise che comunque da lì a breve o comunque in qualche maniera sarebbero arrivati. Ecco, non so se ve lo ricordate voi questo personaggio. Non in questi termini, ma me lo ricordo sicuramente. Io mi ricordo i dialoghi, perché quelli erano di un bambino e io ero un bambino, quindi mi ricordo le cose che diceva, il fatto del mangiare, quando gli hanno passato quelle due o tre cose che era riuscito a bere qualcosa, e mi ricordo ovviamente quando parlò di Mazinga, perché era il periodo di... Esatto, di esatto, grande. Questo è un ricordo che io non ho messo in questo racconto. Comunque Vincenzo dice che si cercavano di incollare le mani del Fantino a quelle di Alfredino perché arrivavano a toccarsi ma scivolavano, e quindi erano per quello che avevano chiamato. Sì, poi ci arriviamo anche a questa cosa, perché quella forse... Ma era relativo alla colla, cioè era per quello che avevano cercato un inventore della colla a ciano acrilica per trovare un modo di incollare le mani del Fantino a quelle di Alfredino. Comunque, come vi dicevo, alla fine le forze dell'ordine avevano già perso il controllo di quello che stava succedendo, anche per la quantità di persone che erano arrivate. Comunque la seconda trivella quindi La prima trivella, quindi incontrò questi problemi che dissero poi i geologi, perché praticamente questa roccia, questa parte rocciosa, non fu praticamente possibile riuscire a scavarla. Quindi intervenne una seconda trivella più potente, che alla fine trovò le stesse difficoltà, ma a un certo punto riuscì a sfondare la roccia. Tra l'altro, questa cosa in qualche maniera creò anche un po' di, ma, insomma, un po' di buon umore, sì, di buon umore, ecco, diciamo così. L'uomo ragno, Carlo, l'uomo ragno, cioè, che poi un nome un po', cioè, nel senso, io non me la ricordo questa cosa del telegiornale, l'uomo ragno. Noi eravamo ragazzini, ah, l'uomo ragno, no? Magari non lo vedevi e pensavi, cioè, l'immaginazione di questo personaggio, Isidoro Mirabella, che praticamente fu un ennesimo tentativo di calare una persona alla ricerca del contatto con il bambino, di arrivare al bambino, e ovviamente anche in questo caso purtroppo il risultato non fu assolutamente possibile. Johnny Siculus in chat dice: se non sbaglio gettò le basi per la creazione della protezione civile. E in effetti è vero, nel senso che sono andato a cercare quello che mi avevi chiesto tu prima: non esisteva la protezione civile, non esisteva, ma infatti fu questa tragedia qua, la mancanza di coordinazione, che portò a pensare di instaurare un sistema di gestione delle emergenze, e da lì poi, dopo un tot di anni, nacque il Dipartimento della Protezione Civile. Ma infatti io, quando ho pubblicizzato 2 settimane fa questa puntata, tra l'altro voglio fare anche un inciso su questa cosa, quando ho pubblicizzato io la scrissi questa cosa, però la scrissi a memoria, e mi resi conto di aver fatto un po' un azzardo, perché avevo scritto a memoria una cosa che avrebbe potuto essere contestata, e siccome che non ne ero sicuro al 100%, non l'ho più riscritta nelle varie riproposizioni, ovviamente, della diretta. Tra l'altro, voglio dire, prima che qualcuno magari si faccia, possa far commenti anche a posteriori, per chi ascolterà sia la versione in podcast che la versione su YouTube quando la caricheremo, non ha niente a che fare la decisione di fare questo episodio con quello che è successo recentemente, tra l'altro, che andrebbe comunque citato, perché io penso che non riesco neanche a capire quale possa essere il senso di andare a deturpare la tomba di un ragazzino morto 40 anni fa per con le svastiche, cioè. Ave Maria, una cosa che hanno fatto non ha neanche un senso da quel punto di vista. Cioè, veramente, mi sono già espresso su queste cose, non voglio essere poi. Comunque, torniamo un po' al discorso che facevamo prima del vigile del fuoco, che appunto provava a parlare col bambino, ma il bambino cominciava a perdere proprio coerenza, nel senso, spesso e volentieri non era più lucido, e ci stavano dei momenti di lunghe pause, e questo chiaramente ha terrorizzato il paese, perché erano comunque i primi segni di una difficoltà. Voi dovete sempre considerare che questo ci aveva 6 anni, non era niente possibile insomma riuscire a resistere oltremodo. Anzi, io penso che veramente, se consideriamo che gli ultimi tentativi sono stati fatti intorno alle 50 ore, insomma, è una storia insomma di grande resistenza, insomma. Comunque, vabbè, come abbiamo detto prima, che la seconda trivella riesce a sfondare, quindi insomma, dopo questi grossi silenzi, in qualche maniera si sparge un po' questo applauso generale. Poi chi ha seguito un pochino si ricorderà anche questi suoni, che sono incredibili, veramente, come rimangono memorizzati nella nostra mente, no? In qualche maniera. Quindi ogni tanto si sentiva dalla diretta televisiva questi timidi applausi, che ogni tanto è successo qualcosa. Poi, vabbè, purtroppo spesso e volentieri non succedeva niente. E questo fu un evento importante, secondo me, molto. Ci fu una polemica sulla cosa che stiamo per raccontare, perché come al solito nella politica poi alla fine c'è la polemica. Però per chi ha conosciuto Sandro Pertini, che era Presidente della Repubblica in quel momento, sa che Sandro Pertini forse in quel momento con la politica aveva poco a che fare, era oramai alla fine della sua carriera, forse della sua esperienza politica in senso generale, da partigiano a padre della Costituzione a Presidente della Repubblica, Presidente della Repubblica laico e socialista, che ricordiamo, questo già insomma non è che nel paese insomma erano cose un po' particolari in un'era ancora in cui persone come democrazia cristiana c'era. Esatto. In un'epoca poi dopo dove Pertini, le persone come Pertini erano socialiste sul serio, non erano, esatto, non era l'era di Bettino Craxi. No. E lui intervenne nel senso che lui arrivò alle 16:30 del 12 giugno, quindi ricordiamo sono già passati 2 giorni fondamentalmente, e questa cosa fu importante perché Pertini non se ne andò, cioè non se ne andò per fino al giorno dopo. Cioè voi immaginate insomma una persona anziana e non solo lui volle parlare col bambino, poi non ricordo bene se ci riuscì, no? Però la cosa che ci ricorderemo sempre era Pertini che si incazzava con la gente perché non facevano silenzio durante le fasi di coordinamento. Questo qualcuno se lo ricorderà, ma c'è proprio una scena dove si vede state zitti voi, quindi non c'era niente secondo me di precalcolato in una storia come questa. E non lo dico perché a me Pertini, cioè nel senso gli ho sempre voluto bene proprio come personaggio insomma, ma lo dico perché l'ho vissuta così, l'abbiamo visto anche nel modo in cui lui raccontava le sue storie quando veniva intervistato. Lui non aveva queste sovrastrutture, ok, e forse proprio perché comunque era magari alla fine comunque della sua carriera politica. Non so se voi ve lo ricordate Pertini quando è arrivato. Certo che me lo ricordo molto bene, assolutamente. Io me lo ricordo. Davide, penso anche lui. Sì, sì, me lo ricordo. E mi ricordo anche quando tentava di parlare. Perché comunque io adesso non ricordo se sono sempre stato davanti alla TV. Io più che altro la sera stavo, perché comunque di giorno lavoravo praticamente io. E la sera lo guardavo e... A parte che si vedeva il telegiornale, lo facevano vedere molto frequentemente i telegiornali. È venuto Pertini, oggi c'è stato Pertini, ovunque lo vedevi. Però sì, ricordo sicuramente. Sì, poi comunque c'era questa partecipazione civile che comunque era un segnale. Poi alla fine se vai a vedere chi, no? In una fase in cui mi pare c'era il governo Fanfani, era appena caduto proprio per la questione della P2, no? Perché erano state pubblicate praticamente le liste di tutti gli appartenenti, no? E quindi vabbè, questo era un po' un discorso che comunque qui veniamo. Il ingegnere dice che Pertini è stato il miglior presidente che abbiamo avuto. Vabbè. Questo non lo so, devo dire la verità, ma sicuramente è stato il più vivo, vero, più verace, più partecipativo da un certo di punto. Quelli che ci ricordiamo noi, almeno di quelli che ci ricordiamo noi, esatto. Ma è che ce lo ricordiamo, ecco, perché tanti presidenti non ce li ricordiamo proprio. No, esatto, bravo, proprio, ma questo è indicativo, comunque, secondo me. Mm-hmm. Comunque, questi sono gli ultimi due personaggi che entrano in questo racconto, e in particolare Angelo Licheri, che comunque è venuto a mancare qualche anno fa, non tantissimo tempo fa. Io ho visto e letto molti suoi racconti di quello che è stata la sua esperienza di questa cosa. Ricordiamo che lui è quello che è riuscito ad arrivare al bambino. E pur essendo una persona estremamente minuta, lui ha portato dei segni permanenti, sia fisici che psicologici, di questa esperienza. Fisici perché praticamente soprattutto le spalle e le anche furono tagliate fino all'osso, perché per infilarsi praticamente la parte rocciosa gli aveva bucato le gambe, una cosa incredibile. E poi lui ricorderà sempre il fatto che, beh, a parte del polso, di avergli spezzato il polso, no? Involontariamente cercando di prenderlo, e quella fu una cosa che lo ha devastato praticamente, perché voi dovete sempre contestualizzare il momento e anche appunto, come posso dire, l'ingenuità, la verginità che avevamo noi nei confronti di queste cose, di queste situazioni, no? E poi lui aveva il compito di legarlo con delle fettucce, ma quando lui diede uno dei comandi per per essere tirato su lentamente, in realtà lui fu tirato su velocemente, fu uno strattone, questo strattone fece scivolare via il laccio, e quindi perse il contatto con il bambino, che tra l'altro, ricordiamoci, lui era in teoria a 40 metri di profondità, 35 metri di profondità. Poi scopriremo che in realtà le cose alla fine non erano più neanche così. E ribadisco, questo è un personaggio che a me mi ha sempre emozionato, perché lui ogni volta che ha raccontato questa storia, ma vabbè, inevitabilmente, ma tanti l'hanno raccontato, ma lui a volte non riuscì, cioè nonostante fossero passati decenni, lui ancora non riusciva a raccontare questa storia. E Donato Caruso, che anche lui era molto giovane, anche lui un personaggio piccolissimo, se vedete la foto, secondo me dalla foto si capisce, ma entrambi erano potremmo dire dei nani, insomma, in qualche maniera, non voglio offendere nessuno, no? Ed entrambi uscirono stremati da questa esperienza, proprio fisicamente, proprio perché andarono oltre il limite che era consentito stare sotto. Ma in particolare Donato Caruso provò a raggiungere il bambino. Quando si rese conto, perché lui passò per il secondo pozzo e poi si infilò nel tunnel di raccordo, certo. E quando lui arrivò al tunnel di raccordo non trovò il bambino, perché il Alfredino non era più lì dove pensavano che fosse, ma era sceso fino a 60 metri di profondità, e quindi dai 35-60 metri, e quindi si rese conto che probabilmente era quasi impossibile raggiungerlo. Ciononostante lui ci provò, si fermò e tutti lo stavano per tirare su, lui chiese di non essere tirato su, si fermò nell'intercapedine, riposò per un po' di tempo, poi provò ulteriormente a raggiungere il bambino, riuscì a raggiungere il bambino ma non a prenderlo, purtroppo non riuscì ad agganciarlo, a prenderlo, però dalla sua testimonianza i medici dichiararono la morte di Alfredino, perché comunque chiesero a lui di descrivere com'era la situazione, e probabilmente insomma si resero conto che da lì insomma il bambino non c'era più, insomma non ce l'aveva fatta, ma come insomma immaginavo che già i medici si potessero immaginare. Tutta questa storia è durata 60 ore, una cosa incredibile, cioè 60 ore dove tutti siamo stati lì. E quello che successe alla fine di questa storia è che, diciamo, adesso uso un termine forse sbagliato, forse inappropriato, forse anche ingiusto, no? Però è come quando finisce la festa, no? Che piano piano tutti se ne vanno, no? Cominciano ad andarsene, la piana si svuota, le telecamere svaniscono e rimangono qui la famiglia da sola nel silenzio con questo che è ovviamente un dolore che probabilmente non hanno mai colmato nella loro vita, anche perché ricordiamoci, questa è una cosa ancora più drammatica, il corpo del bambino fu recuperato praticamente un mese dopo, quindi neanche a dire, sai, vabbè, ok, non ce l'abbiamo fatta, però abbiamo continuato a comunque cercare una soluzione. Hanno cercato, ma non dando più la priorità a questa cosa. Quindi diciamo che finisce un po' così, una storia che quasi sembrava scritta apposta per avere un finale come questo. Insomma, io non so, quello che vi ricordate voi, però veramente raccontare questa storia è stato impegnativo. Ma tu dici, vabbè, allora perché l'hai fatto? L'ho fatto perché secondo me merita di essere raccontata, perché se ce lo dimentichiamo, in qualche maniera ci dimentichiamo a chi eravamo, come eravamo, che tipo di paese eravamo, insomma, no? E quello che poi questo evento, in qualche maniera, anche dal punto di vista mediatico, ha significato per noi, insomma. Davide, vuoi dire qualcosa? Intanto io metto il chat qua, così almeno se c'è. Certo, proprio la chat appunto dice che Johnny Siculus dice che le vibrazioni della trivella dicono che le vibrazioni della trivella abbiano fatto anche andare più in giù. Quello me lo ricordo anch'io, infatti era una cosa che mi ricordavo, quella delle vibrazioni della trivella, perché ci feci un tema all'elementare su quella cosa lì, me lo ricordo ancora come se fosse adesso. Sì, Vincenzo disse eravamo ingenui, sì, allora in Italia già per tante ragioni erano successi dei drammi, poi magari nella terza stagione racconteremo anche Aldo Moro, tante altre situazioni, però secondo me questa storia in qualche maniera è stato un passaggio che sarebbe accaduto probabilmente comunque, come dice Carlo, gli eventi prima o poi succedono, quindi la televisione avrebbe preso il sopravvento così come lo ha fatto in questo evento, magari in un'altra situazione, però è stato in questa situazione che è successo, e questo merito tra virgolette che noi gli riconosciamo, alla fine comunque ci ha trasformato e ci ha fatto perdere quell'ingenuità, quella come posso dire, quella, appunto, uso questo termine che in qualche maniera secondo me funziona, quella virginità morale che ci avevamo nei confronti di queste cose, perché io ricordo che quando tu sapevi che era successo un dramma del genere, anche se tu non vedevi niente, sentivi il peso della cosa, il peso dell'evento, il peso della vita, cosa che magari col modo in cui vengono proposte oggi magari le informazioni, perdi il contatto con questa empatia, con questa umanità, no? E questo è insomma forse il motivo per cui mi viene da raccontare una storia come questa, se non per il fatto che è giusto ogni tanto ricordare il fatto che un ragazzino che tornava a casa senza nessuna colpa di niente è cascato dentro un pozzo e lì è rimasto, insomma questa è una cosa che a volte uno non sei capace, insomma. Comunque io invece potrei dire che questa storia ci ha portato la TV del dolore, ci ha portato tante cose, però sicuramente una cosa che ha attirato tutte le persone che vedi nella foto, tutta la gente che è stata attaccata alla televisione, non tanto per curiosare o per guardare o per morbosità, ma all'inizio, nelle prime ore, penso nella gran parte dei momenti, perché c'era la speranza di che finisse bene, che finisse con gioia, ed eravamo tutti lì pronti a esultare come se stessimo vedendo la finale d'Italia-Brasile, e chi vinceva il campionato, e stavamo attendendo finalmente che arrivasse il fischio finale dove vincevamo. Ed eravamo lì tutti con quell'attenzione, e come hai ricordato tu questa cosa della festa che è finita, in realtà quando abbiamo capito che non c'era più speranza, in realtà abbiamo spento molti di noi hanno spento la televisione e hanno continuato a fare quello che facevano prima, e è andata male, va bene, basta, e secondo me è terminata con anche più cinismo di quello che ci potevamo aspettare, almeno nei miei confronti sicuramente è stata una cosa che non mi ha segnato poi tanto. Quando è finita, va bene, è finita male, peccato, eccetera, però poi chiuso, il giorno dopo siamo ritornati a vivere senza come se niente fosse, non ha lasciato subito un impatto così immediato, almeno per quanto ricordo, ma per me e i miei amici, insomma, era bello vedere quel momento, chiamiamolo bello per dire, eravamo tutti molto entusiasti di vedere questa situazione, perché speravamo davvero di vedere la fine positiva, e invece quando è diventata negativa ce ne siamo un po' disinteressati, tra virgolette, secondo me. Ma io penso che il fatto che abbiano, quando è finita male, tutti ovviamente speravamo che finisse bene, ed è giusto quello che dicevi, che eravamo tutti lì a fare il tifo, ed era anche l'empatia che si crea in queste situazioni tragiche, per cui stai poi attaccato a voler vedere, sentire fino a quando non si risolve. Ma il fatto che sia finita male e che sia stata così chiusa e dimenticata, tanto che poi addirittura, come ha giustamente ricordato Simone, il corpo recuperato 30 giorni dopo e la piena scomparsa sia anche dovuta al fatto di voler dimenticare velocemente questa cosa, questo finale negativo, cioè era stata talmente vissuta questa empatia in quei giorni che il fatto che sia finita male si voleva subito dimenticarsi, cioè volevamo provare a scordarci questa cosa. D'accordo, cioè è come fosse stata una sorta di sovraccarico, cioè noi non avevamo mai vissuto un'esperienza collettiva di quell'entità e nel momento in cui l'abbiamo vissuta tutta insieme e di proporzioni incalcolabili. Cioè, ricordiamoci la questione di Aldo Moro, no? Quando fu trovato il corpo di Aldo Moro, tutti nel paese avevano la percezione che era successo qualcosa di grave, però era successo, ed era successo in quel momento e finiva lì. Questa è una storia che è durata 60 ore e per 60 ore noi siamo stati saturi di questa cosa e in qualche maniera a un certo punto abbiamo avuto una reazione a questo comportamento. Poi io sono d'accordo con quello che diceva Davide all'inizio quando lui dice che non c'era morbosità nel fatto di andare nella piana, ad esempio. Secondo me c'era grande senso di partecipazione. Poi dopo, secondo me, è subentrata anche un po' la morbosità, perché poi alla fine non riusciamo a staccarci da questa cosa, perché la televisione non si staccava e quindi non ci staccavamo neanche noi. Quindi è stato un, diciamo, un turbine, un risucchio costante, continuo da parte di uno verso l'altro, no? Come una danza incredibilmente macabra. È come Vincenzo che riassume una cosa che comunque hai già detto anche tu, che dice: gli unici vincitori sono stati i media, che hanno capito il potere enorme delle dirette, esatto, drammatiche. Esatto, ed è quello che poi è successo successivamente con tutto, poi dopo fino a arrivare. Io mi ricordo, da tante cose che sono capitate, me ne ricordo un'altra molto simile, se vi ricordate, di Chi l'ha visto, con il genitore di quelli col camper, che ci hanno tenuto davanti allo schermo comunque tante ore, tanti episodi di questi avvistamenti. Li abbiamo visti qua, li abbiamo visti là. Adesso non so se vi ricordate, comunque Chi l'ha visto all'inizio dei tempi era una trasmissione che puntava in questa direzione, se vogliamo, no? Cercando delle persone scomparse. Ah, diciamo che Chi l'ha visto, sì, perché poi dopo c'è la televisione, no? Cioè la televisione purtroppo poi aveva capito che aveva queste sue regole, no? Però Chi l'ha visto, diciamo, all'inizio ce l'aveva un valore sociale, cioè ci provava, no? In qualche maniera. Ricordiamo che lì eravamo all'inizio degli anni 90, c'era una sorta di quasi recupero collettivo, sociale, civile, diciamo, del nostro paese, che poi è sparito praticamente subito. E però è vero, secondo me, nel momento in cui tutta questa situazione si è materializzata, quindi concretizzata tutta questa esperienza in qualche maniera in Piazza Italia, no? Cioè, nel senso, la piazzetta dove tu sul Rai 2 alle 11 di mattina o durante l'ora di pranzo prendevi due disgraziati e li intervistavi, li facevi piangere e tutti quanti si commuovevano dietro a questa cosa, e da lì che poi dopo non ne siamo proprio più usciti da questa cosa. E anche la televisione di Maurizio Costanzo era così, cioè i programmi di Maurizio Costanzo, che per 20 anni, 30 anni, forse anche di più, ci hanno intrattenuto con situazioni grottesche, simpatiche, interessanti, anche culturali e via dicendo, ma senza mai dimenticare il fenomeno da baraccone, l'elemento drammatico, o il fenomeno da baraccone, elemento drammatico insieme. Quindi alla fine, ecco, cioè, questo è quello che è uscito fuori da una situazione come questa. Ma come diciamo, magari sarebbe successo comunque, prima o poi, no? Però io ho questa immagine, immagine, e poi finisco, del microfono calato. Cioè, a me l'immagine del microfono calato, anche con tutta la buona intenzione che posso concederti, perché te lo concedo, con tutta la buona intenzione che posso concederti, tu sei entrato, hai rotto la barriera, sei andato oltre, hai spezzato un confine. E da lì in poi era tutto lecito, perché era cronaca, perché era giornalismo, perché era informazione. E io questa cosa non l'ho mai accettata, veramente. Ecco, diciamo, questo forse è il punto focale per quanto mi riguarda. Insomma, Carlo, volevi dire? Sì, no, beh, diciamo che il microfono io me lo ricordo bene, ma me lo ricordo come un fatto positivo, nel senso di quello che raccontavi prima, del vigile del fuoco che riesce a instaurare il dialogo di con fiducia. Il bambino, quindi esatto, a tenerlo in vita, eccetera, eccetera. Non ho questo raccordo negativo del microfono. È, diciamo, che quello che si evince non è tanto. Tu probabilmente l'hai collegato a quella. No, io credo tutto l'insieme. No, insomma. Io credo che quello che voglio dire, che, Simone, è il microfono, finché viene utilizzato come mezzo tecnico per comunicare col bambino, ed è una questione tra il vigile del fuoco e il bambino per coordinare le cose, bene. Se lo metti in diretta TV e fai sentire a tutti questa sofferenza, allora questo è il confine che hai spezzato. Come abbiamo detto prima, secondo me non l'hanno fatto apposta. No, cioè, no, è stato un atto volontario quello di dire lo facciamo andare questa è una concessione che faccio, ma non posso dire di essere sicuro di questo. Io tendo a pensare, sono convinto, abbastanza convinto, che non c'era l'intenzione di fare questo, però nel momento in cui tu l'hai fatto, ok, cioè dopo è cambiato tutto, certo, ovvio. Questo intendevo dire, insomma, no? E quindi questo è stato un elemento fondamentale, anche perché, come diciamo, cioè nel senso, noi oggi ci viene da pensare, adesso faccio un discorso assurdo, no? Quando tu cammini per Pompei, no? E vedi i resti di una civiltà grandiosa, meravigliosa, e dici chissà se esistesse un sistema per recuperare l'audio di 2000 anni fa, che se stanno a dire, che dicevano qua, no? Cioè nel senso, tutto è cronaca, tutto è storia, tutto va registrato in qualche maniera. Però una cosa è, come diceva Davide, tu utilizzi uno strumento che è funzionale a quello che stai facendo, barra è un elemento di cronaca che segnerai negli annali e nella storia di questo evento. B, invece, quando questo microfono alla fine tu fai sentire a milioni di italiani, perché ricordiamoci che stiamo parlando di, se non dico una cazzata, 21 milioni di italiani davanti al televisore, fai sentire il bambino che piange, è una cosa che io non, ma già allora, non, cioè nel senso, ero ragazzino, ma già allora lo sentivo un abuso, capito? Cioè nel senso, forse perché mi faceva male magari sentirlo, insomma, no? Vincenzo ricorda, le ultime parole furono Antò, fa caldo. La battuta di Vincenzo non manca mai, ma vince, però ma furono queste per davvero, credo, dai. No. Non credo, e a volte Vincenzo meriteresti di essere bannato, fatelo dire, a volte. No, in questo caso non accetto una battuta del genere, perché come avrete capito io questa storia la racconto vivendola in una maniera un po' particolare, perché poi non c'ho un legame con questa cosa, no? Se non il legame della mia memoria, che è una cosa così importante, insomma. Una cosa non abbiamo raccontato, almeno non ho sentito nel racconto, io me la ricordo. Io ero a scuola in quel periodo lì, e come abbiamo detto in prediretta, infatti mi dico, ma ero a scuola, perché eravamo a scuola? Perché poi tu giustamente, Simone, mi hai ricordato, guarda che alla nostra epoca finivamo intorno al 15 la scuola, quindi sì, eravamo a scuola, quindi io mi ricordo, ero in quinta elementare. E mi ricordo molto bene l'avvenimento e il fatto che io fossi a scuola. Scusa Carlo, chiedo scusa a Vincenzo, lo diceva De Pompei, allora va bene. Allora va bene. Mi sembrava strano che tu avessi fatto una battuta, però ecco, fatta su Pompei, va bene. Pensando a Pompei ci sta, insomma. E mi ricordo che se ne discuteva a scuola, la maestra sicuramente ne parlava, ma soprattutto ne discutevamo tra noi bambini. Io mi ricordo come se fosse oggi le discussioni tra compagni di classe che dicevano arriva la trivella, ma la trivella, ma poi fanno il secondo buco, ma perché non hanno fatto, ma poi ci sono le vibrazioni, allora è sceso per le vibrazioni. Mi ricordo esattamente questi discorsi che facevamo tra compagni di scuola, cioè che in quinta elementare avevamo 11 anni, eravamo piccolini, ma iniziavamo già a capire un po', no? le cose, quindi non è che a 11 anni sei proprio piccolo e c'era proprio una discussione all'interno della classe, e come c'era tra noi bambini di 11 anni, la immagino anche poi nei genitori, nelle discussioni nei bar, cioè tutto il paese E questo l'ha ricordato prima Davide, giustamente, era tutti, ma perché l'ha messa, perché non è arrivata prima, ma dovevano fare il secondo buco, ma dovevano far così, ma dovevano mandare quell'altro, insomma, tutta una discussione accesa e che ha coinvolto tutta l'Italia. E me lo ricordo che disegnai, feci un i classici temini della quinta elementare dove fai il tema e poi alla fine devi fare il disegnino, no? Facevi il disegno di quello che avevi scritto nel tema, almeno alla quinta elementare. Al mio, io addirittura mi ricordo... disegnai la trivella, io mi ricordo che disegnai la trivella, mi era rimasta proprio impressa la trivella col disegno. Perché c'era sul giornale, c'era il grafico, no? Facciamo vedere il disegno con i due tunnel, questo me lo ricordo così, insomma, quindi... Sì, hai ragione. Il discorso del tema, no, perché io a 9 anni forse non l'ho fatto il tema su questa cosa, però probabilmente mi ricordo che alle medie se ne parlò una volta, non so se era tipo una commemorazione, un anniversario o qualcosa, però diciamo che questa, la cosa incredibile di questa storia, anche se l'ho già detto, lo ripeto, la cosa incredibile di questa storia è che pur non avendo avuto un motivo per ricordarla, non è che, sai, ogni tanto sbucano fuori i servizi, ah, voi ricordate Alfredino, cioè a me non mi è mai capitato di vederli, tant'è che a un certo punto c'è stato un momento della mia vita che ho pensato, dico, ma me lo ricordo bene che è successa questa cosa, perché come forse ha detto anche Davide, secondo, c'è stato un momento in cui non abbiamo manco più parlato, cioè, di questa cosa. Qui c'è stato un momento in cui, ma vi ricordate la storia di Alfredino? Era così, così, così o colà? Era successo questo, questo, quello? E poi, vabbè, chiaramente sono documentato perché era giusto documentarmi. Intanto qua Streamlabs dovrò trovare il modo per sconnetterlo dalla mia chat, però vabbè. Comunque, giusto per, l'hai citato tu all'inizio, hai detto è successo quella volta nell'81 e poi è successo tante altre volte, paradossalmente ne parliamo adesso di questo racconto, ma proprio a febbraio in Marocco è accaduta con un bambino che si chiama Ryan la stessa identica cosa, con lo stesso epilogo e con tanti giorni di speranza, perché la trivella stava trivellando il buco parallelo, la gente andava giù, è accaduta una cosa molto molto simile, se andate a vedere a febbraio di quest'anno proprio. In Italia l'abbiamo vissuta magari giusto qualche minuto al telegiornale, ma non l'abbiamo vissuta, mentre in Marocco l'hanno vissuta un po' come, se vedete le foto, vedete tutto il, la pletora di persone come qua nelle foto. Sì, no, l'ho visto, l'ho visto. Infatti, guarda, è incredibile la coincidenza ultimamente con questa cosa qui. Tra l'altro qui c'è Orlik 14 che dice: io ero alle medie e mi ricordo che ad un certo punto si sparse la voce che il bambino era scivolato in fondo al pozzo e che si era salvato nutrendosi di fantomatiche erbe nel fondo, vabbè, di erbe nel fondo. La gioia fu breve, purtroppo, perché era una fake news in ante littera. Ma guarda, questa cosa qui nello specifico non me la ricordo, però io mi ricordo che a un certo punto hanno iniziato a girare storie incontrollate, come in questo e in tantissimi altri eventi. Hai sentito che è successo quello? E questo purtroppo poi forse è anche endemico di situazioni come queste, no? Dove poi c'erano milioni di persone, ognuno raccontava una cosa e poi aveva sentito il cronista che aveva detto e quindi la riportava a quell'altro, e quando la riportava la decima persona era diventata tutta un'altra storia. Sì, esatto. Questo è sempre così. Johnny Siculus dice: mio padre restò segnato da questa storia tanto da vietarmi di avvicinarmi al pozzo in campagna. Sì. Da grande me lo ha ammesso, cioè lo ha saputo, immagino. Dopo. Ci sta. Per chi viveva in campagna, sicuramente nacque. Poi dovete considerare che non è stato parlato del pozzo, l'immaginario del pozzo, esatto. Quindi con le rocce intorno, noi stiamo parlando di un buco nel terreno, cioè, un buco nella terra, esatto. Quindi cioè, è un po' diverso, però in effetti nacque la psicosi. Mi ricordo che si parlò molto del fatto che dovevano essere messi in regola sti pozzi, dovevano essere mappati dove stanno questi pozzi, perché alcuni sicuramente ancora oggi in Italia magari ci stanno, e la gente neanche lo sa che ci stanno. quindi sai, è sempre buona situazione. Credo che come tante cose, come quando accade un incidente aereo, nascono poi tutta una serie di nuove regole, di nuovi sistemi di sicurezza. Anche qua in Italia sarà nato appunto un censimento dei pozzi, sarà nato un sistema di controllo dove verificano che ci sia il coperchio. In Sicilia ne siamo pieni. Immagino. Sarà nato tutto un sistema per fare la mappatura, la verifica, i sistemi di chiusura devono essere omologati, ci sarà stato poi tutto una cercare di mettersi un po' in regola per limitare questi fenomeni. Bene. Io mi ricordo che mi chiesi all'epoca cosa significasse pozzo artesiano. Sì, anch'io sicuramente. E poi ti sei risposto? Mi sono riposto a questi giorni perché sono andato a cercarlo, perché io mi ricordavo che me lo chiedevo, poi me lo sono anche dimenticato negli anni ovviamente, e in questi giorni quando abbiamo parlato della puntata sono andato a cercare, ma che cavolo vuol dire pozzo artesiano? Perché li hanno fatti? Per quale motivo esistono? No, perché li hanno fatti esistono è abbastanza semplice, nel senso che sono pozzi dove sono buchi nel terreno, alla fine, che vengono fatti per arrivare alla falda acquifera, che risale in superficie senza ausilio meccanico, cioè tu fai il pozzo e la pressione fa salire direttamente l'acqua in superficie praticamente, quindi non hai bisogno di avere un qualche tipo di ausilio per tirare fuori l'acqua da questo pozzo, che poi si esauriscono e rimangono questi buchi dove appunto è caduto Alfredino. E l'altra cosa, si chiama artesiano perché deriva semplicemente dal fatto che una delle prime località al mondo dove fu fatto era una città francese che si chiama Artois, e quindi da lì pozzo tipo quelli che ci sono ad Artois, cioè artesiano, cioè della città di Artois. Sì, anche perché questo mi ha sempre fatto un po' sorridere, tutto sommato, perché non era un pozzo, ma era un pozzo artesiano, cioè nel senso ci specificavano, non cioè ci tenevano a specificarlo, e secondo me il 50% delle persone non sapeva la differenza. Certo. Però era un buco nel terreno, questa era un po' la sostanza, e in effetti se uno ci pensa è veramente una cosa drammatica, perché cioè, avere un problema, un incidente o morire per una coincidenza del genere, ragazzi, è fuori da grazie di Dio. Cioè dice, sai, stai a giocare, sei un po' così, sei al limite del burrone, stai attento, c'è il burrone, caschi nel burrone, ma lì proprio, cioè, nell'inconsapevolezza, è una cosa che non mi sono mai capacitato io di questa cosa, e probabilmente forse è uno dei motivi per cui mi porto sempre un po' dietro questa storia, che oggi che ho 50 anni forse riemerge in qualche maniera, no? Poi sai quando accadono quei fenomeni tu dici, cavoli, se avesse solo camminato mezzo metro più a destra per tornare a casa, il destino è così, cioè, una pura coincidenza, cioè non c'è niente da fare. Vabbè ragazzi, okay. Io non so se avete altro da aggiungere. No, direi di no. Io guarda, per questa sera non faccio pubblicità di niente, abbiamo fatto del trailer prima di Survival Hacking, non mi sento di fare una cosa. Farò una cosa, metterò un brano di Baustelle che si intitola Alfredo, ovviamente la metterò solo per runtimeradio.it, solo per la radio, e che oggi mentre che la scaricavo, la mettevo in programmazione, Marco ce la faceva a sentirla, perché veramente, quindi so, poi è a vostro rischio e pericolo. E saluto, nel senso proprio che saluto, così dopo poi ci sentiamo magari in chat, perché per una questione di regia sono costretto a salutarvi, perché siete nello stesso canale della canzone, quindi dopo si incasina un po' tutto. Quindi saluto Carlo Sant'Agostino, ci vediamo a Bologna al 25, a tutti. 26, Archeologia ciao Informatica, tutti. Canale Perfetto. YouTube, tutto quanto. E ciao Carlo, grazie di tutto. Grazie a tutti. Ti saluto, ciao. E ovviamente, no, ho sbagliato, scusate. Vabbè, un errore lo devo fare stasera, dai, sono stato bravo tutto sommato. E ringrazio ovviamente Davide Gatti, Survival Hacking, anche lì, canale YouTube, attivate la campanella, iscrivetevi, condividete, mettete tanti like e a bomba, dai. Ciao a tutti e buona serata, e grazie per essere stati con noi a ricordare questo momento che andava ricordato. Grazie a tutti ragazzi, vi ricordo www.nantemeridio.it se volete non solo fare play adesso sulla web radio così vi sentite il brano, ma soprattutto se vi capita anche di andare a andare sul tag, sulla pulsante anch'io e contribuire a quello che è il nostro progetto. Come sapete potete fare una donazione ricorrente su Patreon, una donazione una tantum su PayPal, e se volete ovviamente insomma noi ne saremmo fieri, perché come sapete questo è un comunque una sovrastruttura che ha i suoi costi. Ciao Davide, ciao a tutti e buonanotte. Un pezzetto bello tondo di cielo d'estate sta sopra di me, non ci credo, lo vedo restringersi contro le stelle. Ora sento tutte queste voci, tutta questa gente ha già capito che ho sbagliato, sono scivolato, sono caduto dentro il buco. Bravi, sono venuti subito, sono stato stupido, ma sono qua.